La politica alla prova. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e da Elisabetta Fiorito qui dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Riunione Elisabetta della Giunta per le elezioni e immunità del Senato, sta intervenendo il relatore del Popolo della Libertà Andrea Augello sulle pregiudiziali presentate dal partito di Berlusconi sulla legge Severino e in particolare sulla retroattività. Ma sentiamo cosa ha detto proprio Augello a Repubblica prima di entrare. Il documento è corposo, ma la Giunta è un organo qualificato, cioè ci sono persone che sanno leggere questo tipo di materia con velocità e competenza, per cui normalmente, di norma, quando c'è una relazione così c'è un piccolo rinvio di qualche giorno in cui approfondiscono i colleghi e poi vengono a confutare o a sostenere la tesi che viene esposta. Il relatore deve dare conto di tutti i termini che vengono utilizzati, di tutti gli argomenti che vengono utilizzati nei termini di difesa che precedono il giudizio. Io non ho motivi di proporre sospensioni, io presento tutte le mie carte oggi e poi sarà la Giunta a decidere se sospendere o andare avanti. Cerchiamo di capire che questo non è un problema, non cambierà il mondo se la Giunta dice giovedì o lunedì, insomma non mi sembra che questo sia il cuore della questione. Ma potrebbe cambiare, Vincenzo, se il senatore Berlusconi non sarà più senatore quando la Giunta finirà i lavori e dovrà decidere appunto della decadenza. E intanto un senatore del PD twitta sul sito Facebook che Augello alla fine con queste pregiudiziali vuole solo perdere tempo. Quindi abbiamo sentito, i partiti non si muovono dalle loro posizioni, però ricordiamo il numero dei nostri SMS 349-238-6666. Stefania Pezzopane, PD, e Felice Casson bocciano quindi ricorsi europei da parte del PDL, anzi Pezzopane insiste per un voto celere, un voto sulla decadenza. Più cauto l'unico socialista della giunta in quota PD, Enrico Buemi. Sentiamo cosa ci ha detto. No, io non è che sono incerto, io devo formarmi un giudizio. Il giudizio si forma all'interno della giunta a partire da oggi pomeriggio alle 3. Sentiremo la relazione del collega Augello, il dibattito che si svilupperà, esamineremo i profili delle varie questioni che verranno poste in base alle leggi vigenti, Costituzione, legge Severino, sentenze di varie. Ma per lei è incostituzionale la legge Severino? No, io ancora non lo so questo. Vedo che c'è un dibattito acceso tra insigni costituzionalisti, presidenti emeriti, pareri di ministri della giustizia in carica, quindi se il dubbio c'è bisognerebbe affrontare la questione. Quindi insomma lei attende di sentire il relatore e poi si farà una sua opinione. Non ha opinioni. Opinioni precostituite, come io vuole il PDL. Stamattina, oltre che averlo sulla mia scrivania da molto tempo, il regolamento. Giro con la Costituzione della Repubblica Italiana e il regolamento del Senato. Dentro questo libraccio ci sono le risposte e anche le indicazioni comportamentali che dobbiamo avere. Un avviso a quelli anche del PD? A tutti, al PD e al PDL e anche agli altri e anche per me. Perché anch'io devo sottostare alla legge fondamentale del nostro paese e alle leggi collegate. E così dunque Buemi, socialista in quota PD, incerto, lo abbiamo ascoltato su come esprimersi sulla incandidabilità di Silvio Berlusconi. Idee molto più chiare invece quelle di Lucio Malan. Elisabetta, i tuoi microfoni, Malan. Chiediamo al Partito Democratico che giudichi non sulla base della ostilità o meno nei confronti di Silvio Berlusconi, ma sulla base del diritto, delle leggi, della Costituzione e di tutto quello che si fa tutte le volte che si deve prendere una decisione di carattere giurisdizionale. Speriamo che l'esame delle varie proposte, dei vari argomenti, porti a una soluzione che si condivida, perché si potrebbe anche scoprire che esiste la soluzione che mette d'accordo tutti quanti. Certo, al momento attuale sembra molto difficile. Al momento in cui questo non avvenisse, poi vedremo quello che succede, perché una decisione presa senza motivazioni altre che non quelle la legge va applicata, che è un puro slogan, perché la sentenze vanno applicate, perché la sentenza da nessuna parte dice che Berlusconi deve decadere e pertanto si applica. È come dire facciamo il processo, no, non facciamo il processo perché la legge si applica sempre, ma il processo, oppure in questo caso l'esame da parte della Giunta delle elezioni, si tratta di vedere quanto deve essere applicata, se deve essere applicata a questo caso, se no sarebbero inutili tutti i processi, chiudiamo i tribunali. Dopodiché uno è liberissimo di non votarlo. No, tu sei stato condannato anche 3.000 anni fa per un reato e io non ti voto perché sei stato condannato, ma ci sono le elezioni apposta. Allora questo secondo me è già solo di per sé, questo è incostituzionale. Sì, ma onorevole Malanna, ma a Silvio Berlusconi le converrebbe andare dalla psicologa una volta a settimana a fare questo affidamento ai servizi sociali, la chiudiamo lì, no? È una questione di principio e non si può accettare. Intanto questo, quello di cui stiamo decidendo oggi non è assolutamente l'applicazione della pena della reclusione, che non può essere in nessun modo influenzata dalle decisioni della Giunta o del Senato. Sotto il punto di vista dell'esecuzione della pena, Berlusconi è trattato esattamente come qualunque altro cittadino. La cosa su cui non è trattato come qualunque altro cittadino è che un cittadino che non sia parlamentare non può decadere da parlamentare. Però ammetterà che andare agli arresti domiciliari ad Arcore non è come andare agli arresti domiciliari al Prenestino, no? Ma lui se l'ha guadagnata quella villa lì, che dobbiamo buttarlo, dobbiamo metterlo in una bidonville, perché poi quando ci sarà anche la confisca del patrimonio e magari pure l'esilio per lui e per i discendenti, poi ne parleremo, ma per ora non è ancora, la proprietà privata è ancora tutelata dalla Costituzione. La sinistra pensa sempre di essere detentrice della verità, non lo dice Lucio Malanna del PDL, quello che abbiamo ascoltato, ma bensì una nostra radioascoltatrice Sonia da Brescia. Altri sms, Vincenzo? Sì, è un argomento di quello di Berlusconi che interessa evidentemente e divide i nostri ascoltatori. Decadenza subito per i giudici comunisti, scrive un anonimo ascoltatore, ed ancora giustizia, sempre Sonia di Brescia, ma dov'è finita la gente indignata che non si decide a dire basta, un altro sms. Elisabetta. E poi c'è un radioascoltatore Movimento 5 Stelle che se la prende con la Boldrini, che si scandalizza perché un gruppo di ragazzi sale sul tetto di Monte Citorio per manifestare contro lo scempio della Costituzione, ma dovrebbe essere lei la prima a sostenere questa causa, mentre il monarca Giorgio tace. Allora subito andiamo a sentire qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, che comunque non cambia. Mario Giarrusso. Noi non siamo un organismo giudiziario, non rimettiamo alla Corte Costituzionale, ma soprattutto se in questo palazzo qualcuno ritiene che la legge Severino sia da modificare, siccome hanno le larghe intese, una grandissima maggioranza, che lo facciano e se ne assumono la responsabilità davanti al Paese. Questi sono tentativi pretestuosi di non applicare la Severino che loro stessi hanno approvato neanche un anno fa. Noi non aspettiamo nessuno, perché la Severino dice immediatamente, ed è un termine giuridico chiarissimo per chi si occupa di diritto, non ci sono rinvii. Un'indiscrezione invece che arriva in questo momento sui tempi che potrebbe avere la Corte Europea nel rispondere all'istanza di Silvio Berlusconi: i tempi sarebbero lunghi, 3-4 mesi. E qualcuno contesta, se si trattasse di Prodi o D'Alema sarebbero già fuori da subito. Insomma, i nostri radioascoltatori sono sempre appassionati a questo tema. Io vi saluto, un saluto quindi da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.